giù giù picciarro, guarda la comungiana, soglie la soglierà, guarda la comungiana, soglie la soglierà, oh ciccio paeco, oh ciccio paeco, oh guarda la comungiana, soglie la soglierà, guarda la comungiana, soglie la soglierà. Oh Giovannino, oh Giovannino, guarda la comungiana, sogliela, sogliela, guarda la comungiana, sogliela, sogliela, mamma non voglio marina, mamma non voglio marina, mamma non voglio marina, mamma non voglio marina. Pezzi vagabondo e sendeva, che nu pezzi vagabondo e sendeva, mamma non voglio marina, mamma non voglio marina, mamma non voglio marina, mamma non voglio marina. Facci sempre in da cantina e sendeva, facci sempre in da cantina e sendeva, mamma non voglio marina, mamma non voglio che marina, mamma non voglio che marina, mamma non voglio che marina. E baci sempre girando e sendeva, e baci sempre girando e sendeva, mamma non voglio marina, mamma non voglio marina, mamma non voglio marina, mamma non voglio marina. Che nu pezzi imbriacone e sendeva, che nu pezzi imbriacone e sendeva, mamma non voglio marina, mamma non voglio marina, mamma non voglio marina, mamma si piglia la lambretta e sendeva, si piglia la lambretta e sendeva, mamma non voglio marina, mamma non voglio che marina, mamma non voglio che marina, mamma non voglio che marina. Casa accatta la gelata e sendeva, cancia accatta la gelata e sendeva, mamma non voglio marina, mamma non voglio marina, mamma non voglio marina, mamma non voglio marina. Sindietta mezzo quarto e sendeva, sindietta mezzo quarto e sendeva. Iorinella, Iorinella, Iorinella, Iorinella, passa passo da veramo, avalombella, passa passo da veramo, avalombella, Iorinella, Iorinella, Iorinella, Iorinella, accordamo tutta voce, avalombella, accordamo tutta voce, avalombella, Iorinella, Iorinella, Iorinella, Iorinella, fa lei a risponda voce, avalombella, e fa lei a risponda voce, avalombella, Iorinella, Iorinella, Iorinella, Iorinella, assumamola di fondo, avalombella, assumamola di fondo, avalombella, Iorinella, Iorinella, Iorinella, Iorinella, rispondimo tutta voce, avalombella, rispondimo tutta voce, avalombella, Iorinella, Iorinella, Iorinella, Iorinella, quando immo pure il gatto, avalombella, quando immo il gatto, avalombella.